Radio Onda Rossa 87.900 e allora, come annunciato, siamo in diretto collegamento telefonico con Londra. Ciao, buongiorno. Gli ascoltatori, gli ascoltatori di Radio Onda Rossa, facciamo un breve report riguardo la settimana di azioni che si è organizzata contro il G8, che, come ripetiamo, è un G8 che si terrà in Irlanda il 16 e il 17 di giugno, quindi la prossima settimana. Questa settimana è stata organizzata appunto a Londra come simbolica per una città simbolica per il capitalismo e la concentrazione di banche e di capitale che c'è in questa città e soprattutto anche in Europa. Diciamo che a livello internazionale è abbastanza un concentrato di soldi e di potere. Quindi che cosa è successo? In questi giorni il G8 è iniziato l'8 giugno, quindi qualche giorno fa, e si sono concentrate diverse persone internazionali che venute da diversi stati e paesi europei, e si è aperto uno spazio nel centro di Londra, un centro sociale, un centro che poteva in qualche modo ospitare le persone che venivano da fuori Londra. Lo spazio è stato, lo racconteremo, ce lo potremo anche raccontare. Qui c'è Darius un altro compagno di Madrid, che appunto il compagno di Madrid era ieri allo spazio, e poi invece con il compagno inglese possiamo anche raccontare le altre giornate. Cominciamo dalla giornata di ieri e andiamo a riposo, quindi cominciamo un po' con raccontare che cosa è successo nello spazio, magari facendoci anche raccontare lo sgombero e la polizia che c'è stata durante lo sgombero, come si è comportata e che cosa ha fatto. Do you wanna talk about the eviction yesterday? Yeah. Well, around 9 in the morning. Quindi verso di mattina. Two police officers went into, to approach the entrance of the building. Alcuni poliziotti hanno si sono avvicinati all'entrata. And told the people that that anybody leaving the building would be subjected to the stop and search, meaning they would stop the people and search all their belongings to find like any kind of illegal thing. E hanno detto che qualsiasi persona che avesse lasciato lo spazio sarebbe stata fermata e perquisita. The official excuse was they were looking for weapons or any kind of tool that would create criminal damage. Or la scusa ufficiale è stata appunto quella di che stavano cercando ipotetiche armi o altre cose, altri oggetti che potevano danneggiare. So people started considering what to do, how to leave the building, if leave one by one, if by groups. That was, so people started just considering what to do, like for an hour or so. E le persone hanno cominciato a considerare che cosa fare, come in qualche modo affrontare la situazione. E afterwards? And around 1 hour or so, like 10, half past 10, people saw policemen in the roof of the building. They saw that policemen had already entered the building and they were on the roof. Dopodiché appunto c'è stato le persone che erano all'interno del centro hanno visto che la polizia era entrata e era andata sul tetto, quindi si era arrampicata dal building, dal palazzo, e erano già dentro sul tetto. Yeah. So after that it was quite chaotic, people running, screaming, though people were fearing an immigration and raid of the place. E dopodiché le persone si sono cominciate ad agitare, alcune infatti cercavano di uscire dal palazzo, ma era quasi impossibile perché la polizia bloccava praticamente tutta la strada. Hanno cominciato ad entrare e a sgomberare il palazzo. After that, people started collecting their belongings and bags and gathering in different points. Some people started barricading all the entrances of the building. Alcune persone hanno cominciato a fare resistenza, quindi hanno chiuso le entrate dell'edificio, delle entrate ovviamente a piano terra, e si è cominciato a fare un po' di resistenza. The police were on the roof and in the main street there were literally dozens of riot police prepared for any possible eviction. E la polizia era sul tetto, e sulla strada c'erano 1000 poliziotti che si preparavano all'eviction. C'era una cosa come 1200 poliziotti ieri per sgomberare questo edificio. And they told us that they didn't want to evict the building, but they want to search the building for weapons. Loro ci hanno detto che non volevano sgomberare. They didn't want to evict. That's what they said. Okay, quello che dicevano era non vogliamo sgomberare l'edificio, ma vogliamo vedere se nell'edificio ci sono delle armi. So people started discussing about what to do, and after a few hours like that, they just entered. They started destroying the entrance. Yeah. E dopo qualche ora, dopo che la gente comunque continuava a stare nell'edificio, loro sono entrati distruggendo la porta, come probabilmente avete visto anche dalle foto. Hanno distrutto la porta d'entrata e sono entrati. Yeah, they both pepper spray and tear gas on people that were trying to hold the door. Hanno utilizzato lacrimogeni e pepper spray per mandare delle persone che cercavano di resistere, cercavano di far fronte ai poliziotti all'entrata. Yeah, and after a few minutes they got in and they basically told everybody to leave the building, and after that it was somewhat quiet. I mean, I was downstairs. I couldn't see what was happening on the floors, but basically everybody got out and they searched everybody and their belongings. Dopo qualche minuto appunto le persone hanno cominciato ad uscire, si sono prese le cose e hanno cominciato ad uscire, e lì è cominciato la polizia ha fermato e perquisito la maggior parte delle persone. Quindi questo in realtà è stato quello che è successo. Ovviamente la polizia è stata molto violenta. The police were violent. Senti, Tiziana. Sì. No, vorrei che magari ci dicesse il compagno. Sia della situazione adesso per gli arrestati, si parla di più di una trentina di arresti praticamente. Però quelli durante la giornata, la manifestazione. Sì, ne parliamo subito se vuoi. Anzi, finiamo un po', perché in realtà questo è stato quello che è successo durante. Però cos'è un po' il significato di questa cosa? Che loro hanno lasciato questo centro per 2 giorni, quindi cercando un po' di e le persone sono confluite là. Lo sgombero la mattina ovviamente ha rallentato e non ha facilitato la manifestazione durante il pomeriggio. Certo, era, lo diciamo, insomma, perché ci ascolta, era in programma una sorta di carnevale, diciamo, anticapitalista, così è stato. Quindi diciamo così che molte delle persone che erano gli organizzatori, che ovviamente erano all'interno del Convergence Center e quasi 300-400 persone all'interno della how many people in the building at the time? About maybe 70-80. No, how many people there were in the building? Yeah, 300-400 persone, ovviamente. Poi sono rimaste quasi un'ottantina di persone all'interno della dell'edificio, però ovviamente ha rallentato tutta una serie di cose. La strategia che c'è stata, la strategia repressiva che c'è stata, ovviamente è stata molto, cioè è veramente molto intelligente, perché cominciano dal ci sono varie situazioni in cui arrestano poche persone, cioè fermano gruppi di persone e le arrestano. Quindi diciamo che si frammenta la manifestazione, non è un attacco diretto a tutta la manifestazione, o c'è un attacco molto violento, ma sono piccoli attacchi, cioè piccoli blitz che vanno poi a arrestare diverse persone durante la giornata. Questo ovviamente, e ovviamente anche perquisendo e facendo questa repressione psicologica. Quindi diciamo questo, che strategicamente dal 2008 adesso si sono evoluti notevolmente, questa è la polizia inglese, e questo non permette ovviamente a una gestione della piazza che possa essere significativa. Però parliamo adesso della manifestazione. Quindi durante questo sgombero poi molte persone si sono concentrate in Piccadilly Circus e si è cominciato il carnevale. Did you want to talk about Yeah, can I just say about the building in the day? No, there was I think 35 arrests. In the building or in the day as a whole. Okay, in tutta la manifestazione, quindi ci sono state 35 arresti. Wait a minute, I'm on the radio. I'll just say ci sono stati 35 arresti, come vedi la situazione, perché poi si sta organizzando anche la giornata di oggi, quindi è abbastanza hectic. And we know that at least two people were quite seriously injured, had injuries. We saw the ambulance bringing out one person completely unconscious with blood all over their head in the building. La polizia comunque sì, come dicevo prima, non è estremamente violenta, però ovviamente non ci va con i guanti coi guanti. Quindi ci sono state diverse persone che sono finite all'ospedale con la testa rotta, e abbiamo visto anche diverse, ci sono anche diverse foto con persone che appunto sanguinavano, che sanguinavano. Ben? Yeah, and there's still more people who are, there's still more people arrested, there's still more people in hospital. We won't know until the next days all the details. We know also people were shot with tasers for a long time. We won't know all the details. Sì, un'altra cosa che abbiamo che hanno fatto la polizia è usare i taser, che sono appunto pistole elettriche, e lo hanno fatto in fino allo stordimento di queste persone, quindi lo facevano ripetutamente. Scusa, posso farti una domanda? Certo. Per capire, ma questi arresti, questi blitz, come li ha definiti, sono avvenuti durante la manifestazione e prima? No, sono avvenuti sia appunto nella Convergence che nel centro, che durante la manifestazione. Quindi durante senza nessun tipo di motivo, possiamo dire così? Senza nessun tipo di motivo. Molte persone sono state arrestate senza nessun motivo. E la cosa più assurda è che le persone che organizzavano, le più note, sono state arrestate all'inizio. Quindi, visto e considerato che comunque il percorso della manifestazione non era noto a tutti, e anche gli obiettivi li sapevano soltanto alcune delle persone che hanno organizzato questa cosa, diciamo che la manifestazione a un certo punto si è ritrovata senza le persone che conoscevano quello che doveva succedere. Quindi, e soprattutto con molti internazionali che appunto che non avevano molta conoscenza della città. did you understand a little bit? Listen, I mean, what I think, first of all, this is normal. We should not be surprised that they use these tactics. It's completely normal. For them to raid the convergence center, this is completely, they do every time. For them to arrest the most known people at the start of the demonstration, they do every time. These are normal, standard police tactics, yeah? Lui dice non è certo che ci dobbiamo sorprendere di questa cosa, but del fatto che appunto si vengono arrestati più noti e del fatto che hanno sgomberato il centro. Yeah, but what I was saying is that the management of the demonstration it became at the end really difficult because of the route and the aims, some aims, only few people. How was the demonstration? We knew they would use these tactics. The problem is we didn't have enough people. It's that simple to me. Quello che dice noi sapevamo che avrebbero usato queste tattiche, il problema è queste strategie, però il problema è che non avevamo abbastanza persone per resistere. Tiziana, perché siccome abbiamo, come puoi ben immaginare, anche altri collegamenti, soprattutto con Istanbul, quindi dobbiamo un po' accelerare. Fa specie il fatto che poi i media raccontino, come al solito, quasi un'altra storia, nel senso che mettono in evidenza magari piccoli episodi, facendo quasi credere che le cose siano andate in maniera molto, ma molto soft. Ad esempio, si dice che la polizia abbia impedito il suicidio di un attivista, eccetera. Quello stava scappando, è veramente assurdo. Vabbè, però ovviamente ne parleremo nel caso, proprio per lasciare spazio agli altri. Adesso cerchiamo di fare il punto su quelle che adesso, visto che come ci diceva anche il compagno, un po' di difficoltà appunto questi arresti inevitabilmente li hanno create, come si sta cercando di far fronte a questo tipo di with the arrests? Yes, there's been some people have already been released, which shows that the arrests were absolutely for nothing. Some people were let out like last night with no charge, nothing. Some people are still inside, and we're waiting. We certainly are supporting the people there. We have a very good legal team. We have a lot of people supporting the comrades inside, and we just have to make sure we support them in the next day. Lui dice ci sono alcune persone che sono state già rilasciate ieri sera, e questo ti fa capire quanto appunto non avevano nessun motivo per arrestarle. Alcune sono ancora dentro, ma le persone che sono ancora dentro, diciamo che hanno hanno anche diverse, cioè il problema è che ci sono molte persone che sono state arrestate in una manifestazione antifascista che c'è stata la settimana precedente, quindi diciamo che insomma sono diversi i casi. Ovviamente si ha un team legale che fa fronte a questa cosa. Io vorrei per finire questa breve, questo racconto, anche dare un po' di significato alla manifestazione di ieri, e dare significato anche a quello che è ad oggi il G8. Quello che si sta vedendo appunto è che non c'è molta partecipazione, ma le persone quello che cercano è molto di ritornare un po' al locale. Infatti anche i primi giorni sono stati per noi un'occasione per mettere insieme diverse realtà che fino ad allora non si erano molto, molto parlate. Quindi c'è stato questo incontro con secondo me ben riuscito con alcune dei gruppi che lavorano con migranti, o c'è appunto questo gruppo Anti-Race Network che lavora che cerca di fare workshop per prevenzione per legale per le perquisizioni i fermi in caso di come cavolo si dice undocumented people di persone senza documenti e quindi appunto migranti con persone che poi appunto United Family Against Death in Custody, che è appunto un gruppo che lavora con le persone che sono uccise durante lo stato di arresto. Questo è stato detto anche durante una corrispondenza su questa cosa. Quella serata è riuscita molto bene. È riuscita bene soprattutto perché appunto si sono messe insieme diverse realtà. E questo è diciamo un'occasione per quanto riguarda Londra dopo il silenzio dopo la repressione dei riot di cercare di riorganizzare le lotte dal basso, che appunto come si sta vedendo è anche molto molto difficile perché la repressione è veramente ad alti livelli, però ci riusciremo.